La volta scorsa, ragazzi carissimi, se vi ricordate, ci siamo lasciati introducendo il discorso sul quarto comandamento. La volta scorsa ci siamo lasciati con alcune note introduttive appunto sul terzo comandamento, scusate, sul quarto comandamento che abbiamo appunto cominciato ad introdurre. Vedendo alcune dimensioni, tanto per riprendere un po' fondamentali, di questo comandamento, ricordando come i genitori e le autorità costituite, diciamo così, sono in un certo qual modo i rappresentanti di Dio sulla terra e quindi è loro dovuto l'onore, che mi sembra che abbiamo distinto, sì, credo di sì, dalla venerazione, dall'adorazione e dal rispetto. E onore che gli è dovuto in quanto rappresentanti autorevoli di Dio, quindi a prescindere dalla loro degnità eventuale o indegnità morale. E quindi questo è stato un pochettino il fondamento che abbiamo cercato di porre nella prima puntata. Oggi riprendiamo e seguiamo, scusate, il discorso che abbiamo introdotto, vedendo anzitutto qual è la virtù che caratterizza l'osservanza di questo comandamento. Questo è un comandamento, come abbiamo visto anche per quanto riguarda il terzo, espresso in forma positiva, quindi non è un divieto, quindi non è una proibizione di fare qualcosa, ma è come dire, un comando di fare qualcosa, quindi onora tuo padre e tua madre, quindi bisogna anzitutto comprendere qual è la virtù che specifica i rapporti dei figli verso i genitori, anzitutto vediamo questa dimensione, poi come ricorderete abbiamo già detto nella prima puntata che vale anche la reciproca, quindi gli obblighi delle autorità verso i sottoposti, a partire dai genitori verso i figli, che vedremo più avanti con l'aiuto del Signore. Per quanto riguarda l'individuazione della virtù, la virtù San Tommaso, la virtù regolatrice, diciamo così, e quella che incarna, diciamo così, l'osservanza di questo comandamento, si chiama pietà. Pietà filiale, ecco, la pietà non è, c'è una pietà verso Dio, e l'abbiamo vista, se non ricordo male, a proposito dei comandamenti su Dio, la pietà verso Dio da cui derivano le cosiddette pratiche di pietà, consiste nell'adempimento fervoroso e devoto dei doveri verso Dio, specialmente di quelli attinenti alla vita di preghiera e di orazione. Mentre la pietà filiale comporta il corretto adempimento dei doveri imposti dal quarto comandamento, che adesso cominceremo a vedere. Ecco. Allora, questa virtù, come del resto anche quella che riguarda il comportamento verso nostro Signore, si specifica anzitutto nella riconoscenza e nella gratitudine che i figli devono sempre avere e conservare verso i genitori. Perché? Perché hanno ricevuto un dono unico e non ricambiabile né uguagliabile, che è quello della vita. Anzitutto. Io invito soprattutto i più giovani su questo, vi prego umilmente di ascoltarmi a fare una grande riflessione e una grande meditazione. Noi siamo nati e abbiamo ricevuto la vita perché i nostri genitori ci hanno accolto. Oggi meno che mai non si può e non si deve dare per scontata questa dimensione. Cioè, noi ci siamo, ragazzi e ragazze carissimi, avendo avuto la vita come dono ricevuto. Io non penso che nessuno di voi ricordi o sappia il giorno in cui è stato concepito, a volte non lo sanno neanche i nostri genitori, non abbiamo memoria di cosa è successo nei 9 mesi in cui nostra madre ci ha portato nel grembo, non abbiamo per la verità neanche memoria della data di nascita, che noi sappiamo perché ce l'hanno detta i nostri genitori, non certo perché ne abbiamo coscienza, e abbiamo anche fondamentalmente l'oblio dei primissimi momenti della nostra esistenza. Cioè noi non sappiamo che cosa è successo nei primi passi della nostra vita terrena, non ricordiamo nulla, non sappiamo nulla. E quindi ecco, tutto quello che attiene al principio, ai primordi della nostra esistenza, è custodito dalla memoria storica dei genitori ed è stato reso possibile da un sì che i genitori hanno detto. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, ragazzi e ragazze carissime, perché è assolutamente una dimensione da ricordare e da custodire e da mantenere nella memoria storica. Perché è qualche cosa di grande che i nostri genitori ci hanno donato e che non potremo in nessun modo mai ricompensare adeguatamente. Noi non possiamo rendere ai genitori il dono della vita, né possiamo in parte, ecco, possiamo, non solo possiamo, possiamo e dobbiamo, come vedremo, rendere in parte, qualora fosse necessario, e guai a chi non lo fa. Che nessuno si azzardi a non farlo, ricambiare magari sacrifici e l'impiego del tempo, di soldi e di fatica che i genitori hanno fatto non tanto per accogliere la nostra vita, cose che non possiamo ricambiare, quanto per metterci al mondo, soprattutto per allevarci, mantenerci, educarci e farci crescere. Ragazzi e ragazze carissime, chiunque di voi mi ascolta, è arrivata la sua veneranda o non veneranda età, perché da piccolino mangiava. E mangiava perché i genitori gli hanno dato da mangiare. E i genitori gli hanno dato da mangiare perché lavoravano per questo. Gli hanno dato da vestirsi. E i vestiti, come noi sappiamo, non piovono dal cielo, ma vengono dalle fatiche. E se non siamo, e spero che nessuno lo sia, abitanti di Cafonia, una città a cui, nei confronti dei quali abitanti, purtroppo chi vi parla c'ha proprio un'allergia, guardate, quasi invincibile, per cui se mi si vuole far fare una grandissima penitenza, guardate, superiore ai digiuni, a qualunque tipo di acerbissima mortificazione corporale, ecco, basta che mi trovi di fronte a qualche abitante di Cafone e devo fare degli sforzi supremi, ecco, per vincere la naturale proprio fa fastidio che provo dinanzi a queste cose, però se non siamo diventati abitanti di Cafonia è anche probabilmente per la buona educazione che si spera che ci abbiano dato i nostri genitori. Ora, il libro del Siracide è un libro stupendo, ecco, se qualcuno vuole leggere la Bibbia sappia che i libri sapienziali sono tutti, a partire dai Salmi, passando per i Proverbi, passando per il Libro della Sapienza e per giungere poi fino al Siracide, sono tra i libri, diciamo, più accessibili, perché sono quelli più semplici e quelli per i quali non necessitano grandi conoscenze bibliche per potermi in qualche modo accedere. Sono molto belli e sono anche molto, molto profondi, magari, ecco, in molti figli di Dio conoscessero i libri sapienziali. A proposito di questo comandamento, sentite il libro del Siracide che cosa dice. Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre. Nostra madre, la mia, mi ascolta dall'altro mondo, per farci venire al mondo ha dovuto soffrire, perché ci ha dovuto portare in grembo 9 mesi e purtroppo dopo il peccato originale questa esperienza non è quella che si chiama una passeggiata e ci ha comunque partorito tra i dolori e tra i travagli. È un dono che ci hanno fatto le nostre mamme. Prosegue il testo, ricorda che essi ti hanno generato, che darai loro in cambio di quanto ti hanno dato. Allora, noi dobbiamo capire. Io ritengo, ragazzi e ragazze carissime, guardate, più tempo passa, ritengo che la conversione e anche l'osservanza dei comandamenti passi sempre attraverso una loro profonda interiorizzazione. Certamente noi possiamo anche comprendere bene una realtà e non avere poi la forza di poter agire di conseguenza. Questa è una possibilità reale, però perché la fede e la Chiesa ci insegnano che la debolezza conseguente al peccato originale ha reso debole appunto la nostra già debole volontà. Però un po' l'esperienza personale, un po' l'esperienza pastorale mi insegna che se noi riflettiamo bene, la conoscenza e la meditazione sui fondamenti dei nostri doveri e sulle motivazioni profonde dei nostri doveri è un grandissimo aiuto per metterli in pratica. Se una persona conosce un pochino Dio, ma come fa a bestemmiare? Come fa? Si è capito bene chi Dio è e cosa gli ha dato, come fa? Se una persona conosce che cosa è la messa, ma mi spiegate come fa a non andare a messa la domenica? Io dico, ma mi spiegate come fa a non andare a messa tutti i giorni, se la conosce veramente? Ne abbiamo parlato a suo tempo, no? Io non potrei, io sono, guardate, l'ultimo miserabile che esiste sul pianeta Terra, ma io non potrei vivere se non celebrassi la messa tutti i giorni. E se non fossi sacerdote non potrei vivere se non andassi a messa tutti i giorni. Ma questo non dipende dal fatto che sono chissà quale, dipende semplicemente dal fatto che almeno un minimo conosco e so quello che la messa è, quindi anche quando, ahimè, non ci sto tanto con la testa, sono tanto stanco e non riesco a stare concentrato e magari, come dicono i libri sapienziali, la mente d'argilla è oberata e presa da una montagna di pensieri, quindi non riesco a vivere una partecipazione della Santa Messa così intensa, interiore o devota. Comunque la devo vivere lo stesso, perché non ne potrei fare a meno. Io, se avessi saputo queste cose, ahimè, se avessi potuto meditare, diciamo così, su queste cose quando ero giovane, perché purtroppo non sempre. E lo voglio dire anche in radio, insomma, alla presenza di mio padre e mia madre che mi ascoltano dall'alto, non sempre sono stato, come molti figli del nostro tempo, esemplare. Spero di non essere stato un criminale nei confronti dei miei genitori, però non sempre devo dire di aver osservato bene questo comandamento. Non sono stato sempre un figlio rispettoso, esemplare e onorante ai genitori. Ecco, e mi dispiace tantissimo, enormemente. Purtroppo, ragazzi, noi siamo figli di un tempo balordissimo, che ci ha fatto completamente perdere il senso della sacralità della figura dei genitori. Ed è anche vero che a volte molti genitori, purtroppo, a causa di debolezza o di incapacità, come dire, sono incapaci di esercitare non soltanto l'autorità, ma l'autorevolezza, e quindi, di captare in qualche modo il rispetto, l'ubbidienza e l'amore dei figli. Però sicuramente questo è un grandissimo problema, cioè io ho dovuto riappropriarmi e con fatica di tante cose, dovendo poi fare uno sforzo terribile per metterle in pratica perché avevo delle abitudini contrarie. I nostri genitori sono qualcosa di sacro, ci hanno dato la vita. Io per nessun motivo mi posso permettere di offenderli, di essere ingrato, di mancargli di rispetto, Dio non voglia di farli piangere o di essere per loro motivo di dolore. Non bisogna farlo, ragazzi. Ecco, non c'è niente, è una delle cose di cui ci si pente di più, specialmente qualora poi i genitori dovessero partire da questo mondo. Ecco, non facciamo questo errore. Ecco, pensateci, ragazzi, ci hanno dato la vita. Vostra madre, tua madre, la madre di te che mi stai ascoltando adesso, ha sofferto per farti venire al mondo. Ha sofferto, chiunque essa sia. Non ti vuole bene, è una madre indegna, tutto quello che vuoi. Tua madre ha sofferto per farti venire al mondo. E ha diritto alla riconoscenza e alla gratitudine. Secondo dovere, incluso nella pietà filiale, è il dovere di obbedienza verso i genitori. Attenzione che i figli hanno non solo quando sono ancora infanti o adolescenti, ecco, ma come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2217, anche quando sono un po' più grandicelli, ma vivono nella casa dei loro genitori. Attenzione, adesso dopo, eventualmente forse la pausa, forse subito, lo riprenderemo questo punto, no? L'ubbidienza chiaramente di una persona maggiorenne, già grandicella, è diversa, ecco, da quella di un bambino, di un adolescente o di un giovane non ancora maggiorenne. D'accordo? Ecco. Quindi cercheremo poi, piano piano che andiamo avanti, anche di specificare e di identificare alcuni margini e alcuni limiti anche, no? Perché l'obbedienza non soltanto verso i genitori, ma verso tutte le forme di autorità costituite, presuppone il non andare contro i doveri verso Dio, perché prima del quarto comandamento ci sono i primi tre, e noi ricordiamo che San Pietro, dinanzi alle autorità religiose del suo tempo, quando lo arrestarono, ci sono gli Atti degli Apostoli che gli imposero il silenzio: non dovete più predicare nel nome di Gesù, e loro chiaramente continuavano a farlo. Quando li hanno arrestati, dice: ah, che bravi che siete, voi dovreste essere rispettosi, io sono il sommo sacerdote, cioè io sono allora il sommo pontefice, vi ho detto di non fare questa cosa. Cosa ha risposto San Pietro? Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, così come Gesù in varie parti del Vangelo: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, vi ricordate? Oppure quel passaggio oscuro e forte, crudo: chi viene a me, Vangelo di San Luca, e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i campi e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Sapete che questa espressione è chiamata ebraismo, cioè è una modalità di esprimersi ebraica, e cioè motivata da un'iperbole, quindi da un'espressione volutamente cruda. Ecco, come per chi ha studiato, io ho studiato un pochino di ebraico, è proprio tipico della cultura ebraica. Ci sono anche delle forme verbali nella sintassi, nella grammatica ebraica, che noi non conosciamo, le forme cosiddette intensive. Cioè, per esempio, una forma verbale che si chiama il PL del verbo uccidere: se tu trovi uccidere coniugato nella forma PL, devi tradurre l'ha massacrato, l'ha trucidato, quindi l'ha proprio scannato vivo. Ecco, è proprio tipico di questa cultura, no? E Gesù stava in questa cultura, quindi adopera volutamente questa espressione forte per dire: dice, guarda, che se tuo padre o tua madre si azzardano ad andare contro i miei voleri, tu devi essere capace di tagliarti il cuore e di anteporre i miei voleri ai loro, no? Così come quando dice: io non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la divisione, sono venuto a dividere, il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, i nemici dell'uomo saranno i membri della sua stessa famiglia, oppure sarete odiati da tutti, il padre darà morte il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori. Tutti questi passaggi, diciamo così, delicati del Vangelo, che ci fanno comprendere anche i limiti, no? Io posso subito premettere che i limiti di ogni autorità, quindi anche i limiti di obbedienza che noi abbiamo nei confronti di ogni autorità, sono due. Ecco, noi dobbiamo obbedire se il comando rispetta la volontà e la legge di Dio, quindi non comanda nulla di contrario ai suoi voleri, oggettivi o soggettivi, e se non esorbita dalla propria sfera di competenza. Vi faccio un esempio per me, che sono un sacerdote, no? Io ho promesso filiale rispetto e obbedienza al vescovo. Il governo del vescovo, si dice nel diritto canonico, è un governo nel foro esterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il vescovo mi dicesse, per dirvi, senti, voglio da te che fai questa particolare mortificazione perché questo fa bene alla tua vita interiore, ecco, il vescovo non può dirmi una cosa di questo genere, perché questo comando spetta a chi ha cura del mio foro interno, cioè al mio confessore o al mio padre spirituale. Se me lo dicono loro, è un problema. Se me lo dice il vescovo, ma tanto è vero che nessun vescovo fa mai una cosa di questo genere, perché i vescovi, prima di diventare vescovi, ovviamente sanno bene queste cose, no? Così come se un superiore di un istituto religioso, per esempio, comandasse per assurdo una cosa che è direttamente, formalmente contraria alla regola o a una costituzione o a un direttorio approvato ufficialmente, è ovvio che perderebbe il potere di comandare e non bisognerebbe obbedirgli, perché starebbe andando fuori e contro la volontà di Dio cristallizzata nella regola e che lui stesso, ecco, deve rispettare, no? Ecco, quindi ci sono tutta quanta Pensate per esempio a un genitore che si dovesse opporre, per esempio, a un itinerario vocazionale di un figlio, oppure che, come dire, volesse in qualche modo interferire senza fondamento in questioni che attengono alla vita interiore di un figlio, specialmente se grande, no? Supponiamo che un figlio grande, non lo so, frequenti un gruppo ecclesiale X, d'accordo? Un gruppo ecclesiale X, approvato e riconosciuto dalla Chiesa, dove risulta che non si faccia oggettivamente nulla di male. Ecco, se un genitore, come dire, ingiustificatamente dovesse opporsi a questa cosa, nei confronti chiaramente sto parlando di un figlio grande, senza che ci fossero delle motivazioni reali e oggettive, tipo che un genitore sapesse, ma non per sentito dire, ma provandolo, che in quel gruppo si fanno delle cose turche o cose di questo genere, è ovvio che un genitore potrebbe dire: ti ringrazio papà, ti ringrazio mamma, ma questa mia scelta di vita spirituale che mi arricchisce e che mi fa crescere nel rapporto con Dio non influisce in nulla sul mio amore, sulla mia obbedienza nei tuoi confronti. Non c'è niente di oggettivamente malvagio, ecco, e quindi sta attento, perché se io capisco che questo è quello che Dio oggi mi mette davanti e mi chiede e che lì cresco spiritualmente, cerca di fare un passo indietro, perché non metterti, insomma, a dare queste indicazioni che sarebbero completamente fuori luogo, no? Siamo in una famiglia francescana dell'Immacolata. Immaginiamo che un ragazzo di 20 anni voglia diventare terziario francescano dell'Immacolata e al papà o alla mamma stiano antipatici i terziari francescani dell'Immacolata o i francescani dell'Immacolata, speriamo di no, però sapete, a volte possono succedere che qualcuno c'ha qualche persecutore. Cosa deve fare un giovanotto? Dice: che faccio? Mamma e papà non vuole che frequenti i francescani dell'Immacolata, e manco la mamma di Santa Chiara voleva che frequentasse San Francesco, capite? Quindi bisogna sempre avere questo discernimento. Comunque, fuori di queste circostanze straordinarie, ecco, la norma è l'ubbidienza. È l'ubbidienza. Che poi nei casi chiaramente di infanti o di adolescenti, quindi di ragazzi ancora pienamente soggetti all'autorità e alla patria potestà, i figli sapete che rispondono tuttora anche davanti alla legge fino ai 18 anni del comportamento dei genitori, diventa piena, mai assoluta. L'ubbidienza assoluta si deve soltanto, questo ricordiamolo, a Dio, ecco, e a nessuno altro al di fuori di Lui. Ecco. Ora, questo dovere è ben evidenziato anche, così come il primo, dalla Sacra Scrittura in un altro libro sapienziale, che è nel libro di Proverbi, al capitolo 6, al versetto 20. Figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre, ed anche, questo è ribadito in diverse epistole paoline, ne prendiamo una citazione fra tutte, tratta dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 20, figli, scusate, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Ora, prima di procedere, sono le 17. Facciamo la nostra consueta piccola pausa con una Ave Maria da recitare in onore dell'apparizione di Maria Santissima sotto le vesti di Madonna della Medaglia Miracolosa a Rüdebach. Facciamo una pausa brevissima di silenzio e poi insieme recitiamo l'Ave Maria. Ave Maria. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Riprendiamo, ecco, prima di passare al terzo dovere insito nella pietà filiale, volevo riprendere il numero 2217 del Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, per ribadire quello che ho appena detto, alla luce del magistero autorevole della Chiesa, contenuto in quest'aureo testo che deve essere sempre guida, come hanno insegnato i beati Giovanni Paolo II e il venerato Papa Benedetto XVI, deve essere sempre guida autorevole, soprattutto in mezzo a queste ombre e minacce, ecco, e cose strane in questi tempi. Allora, dopo aver citato proprio l'ultimo versetto della lettera ai Colossesi che vi ho appena detto prima della pausa, e aver specificato che i figli devono anche obbedire agli ordini ragionevoli, sto citando, dei loro educatori e di tutti coloro ai quali i genitori li hanno affidati, attenzione, se in coscienza sono persuasi, attenti, che è moralmente riprovevole obbedire a un dato ordine, non vi obbediscano. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica. Prima vi ho parlato, non devono essere violati i diritti di Dio, né da un punto di vista oggettivo, né da un punto di vista soggettivo, cioè se io in coscienza sento e sono persuaso, questa è una cosa grave da fare davanti a Dio e da consigliarsi anche eventualmente col confessore, che è moralmente riprovevole obbedire a un dato ordine, non solo posso, ma devo astenermi dall'obbedire. E poi chiude specificando che crescendo i figli continueranno a rispettare i loro genitori. Vi ricordate la volta scorsa quando parlavamo dell'onore che comporta l'ubbidienza, e adesso stiamo vedendo la pietà filiale e anche il rispetto. Il rispetto non cessa mai, però preverranno anche i loro desideri, chiederanno spesso i loro consigli, sentite i termini, accetteranno i loro giustificati ammonimenti, però non sono più soggetti all'autorità. Con l'emancipazione, cioè con la maggiore età, cessa l'obbedienza dei figli verso i genitori, ma non il rispetto che ad essi è sempre dovuto, che trova in realtà radice nel timore di Dio, uno dei doni dello Spirito Santo. Ecco, mi sono dilungato su queste cose, ragazzi e ragazze carissime, perché nella mia esperienza pastorale, oltre che alla piaga endemica e grave, ecco, della disobbedienza verso i genitori, oggi diffusissima, ahimè, mi è capitato anche di imbattermi in qualche evidentissimo caso di abuso da parte dei genitori, specialmente sui figli grandi, rientrante in questo versetto che vi ho detto, ecco, e dove qualche genitore, ahimè, come dire, ha condizionato un figlio esercitando pressioni inopportune, invocando l'osservanza del quarto comandamento, quando c'entrava di mezzo, almeno da un punto di vista di coscienza soggettiva, delle cose riguardanti il suo rapporto con il Padre Eterno. Allora, capite l'importanza della buona formazione? Voi immaginate un figlio che per ubbidienza malintesa a un genitore non risponde alla propria vocazione. Immaginate se io, la mia povera mamma, adesso non vorrei che oggi si arrabbiasse dal paradiso che la sto citando tante volte, i primi tempi che io presi la scelta di diventare sacerdote, la mia vocazione l'ho raccontata su Radio Buon Consiglio, è una vocazione relativamente adulta, sono entrato a insegnare a 25 anni, sono stato fidanzato tanti anni, 7 anni dai 18 ai 25, e avevo conseguito giovanissimo una laurea in giurisprudenza, già lavoravo, quindi c'era tutto quanto, e sinceramente è stata una cosa che ha sorpreso anche me, perché non era stata messa in preventivo. Mia mamma, poverina, pur essendo una donna integra da un punto di vista morale e la classica donna tutta di un pezzo, per una forma di affetto grande nei miei confronti e anche, come dire, di timore, probabilmente vedeva insomma la sorte dei sacerdoti di questi tempi, e questo l'ha ampiamente confermato, non è molto molto florida, spesso e volentieri non è molto gradevole, diciamo che ha sofferto non poco, e se fosse dipeso da lei avrebbe forse, come dire, preferito che io seguissi la mia antica vocazione, ecco, e pur non esercitando, come dire, delle forme violente, però esercitava quella forma che, come dire, prende molto il cuore di un figlio. Mia madre ha pianto, piangeva tanto. Quando io lasciai casa, i primi tempi della mia formazione erano a Roma, non erano. Se fossi andato a combattere sul fronte militare, mia madre sarebbe stata meno disperata. Le rare volte che tornavo a casa, insomma, per un pranzo domenicale o per le vacanze di Natale, eccetera, quando ripartivo, io scherzando dicevo: Oddio, adesso si riapre il lacrimatoio. E ogni volta erano dei colpi al cuore, insomma, no? Perché, povera mamma mia, senza questo, dico questo con tutto l'amore e tutta la pietà filiale che nutro adesso nei suoi confronti, nella coscienza che mi sta sentendo piena, però questo chiaramente era un peso per il mio cuore, no? Però immaginate se io, anche mosso da santa compassione verso i dolori di mia madre, fossi rimasto a casa. Non si può fare, capite? No, cioè, in quel momento il Signore ti chiede la prova e la croce di dover affrontare questa cosa brutta, cioè essere la causa involontaria, chiaramente, perché tu stai facendo la volontà di Dio, di un dolore per tua madre, e te lo devi prendere tu e lo devi far prendere a lei. Capito? Quindi, perdonatemi se mi sono dilungato, ma questo punto è molto importante, ecco. Io mi ricordo di aver letto da qualche parte, non so se Maria Simma, che credo che sia una testimonianza di Maria Simma. Sì, tra l'altro c'è anche nel mio canale YouTube, ho fatto un piccolo video con alcune, datelo a vedere ragazzi, chi può, anche perché lì si parla anche della comunione in mano, e parla anche della sorte che ha avuto un sacerdote un po' troppo zelante, che per uno malinteso senso di zelo ha fatto fuori le balaustre dalla sua parrocchia, insomma, quindi è abbastanza forte quella testimonianza, e racconta anche del purgatorio lungo e doloroso, che ha dovuto farsi un genitore, non so se era una madre o tutti e due i genitori, per aver impedito, attraverso questi strumenti, a un figlio di seguire la propria vocazione. Purgatorio lungo e doloroso, perché se un figlio non è ben formato, come sto cercando di fare a voi, quindi ubbidienza, capite bene, eh? Ubbidienza sempre, fino a 18 anni sempre, e ubbidienza piena e sincera, d'accordo? Non quando si va contro i voleri di Dio, lì bisogna fare un passo indietro, e con il dialogo bisogna dire: senti cara mamma, senti caro papà, io ti voglio bene, ti rispetto e ti amo, ma prima di te viene il nostro Signore. Oggi è la festa di San Giuseppe, credo ci sono due Vangeli, sì, se non ricordo male, per la messa di oggi. Uno è quello che io ho proclamato ieri, no? Quello che descrive la nascita di Gesù e il travaglio che San Giuseppe ha dovuto avere dopo la percezione, non per opera della Madonna, dell'evidenza del fatto che la Madonna era incinta, e prima che l'angelo gli lo sollevasse, insomma, da questa cosa, il dolore che ha dovuto sopportare. L'altro è l'episodio del ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio, che è quello che vedremo questa sera, no? Dove compare la delicatezza, insomma, della Madonna, che quando addolorata ritrova Gesù, gli dice: Figlio, tuo padre ed io. Attenzione, notate la finezza, non io e tuo padre, infatti questa sera probabilmente nell'omelia della festa parlerò proprio della figura del padre a partire da questo particolare. Tuo padre ed io ti cercavamo. Gesù cosa ha risposto? Mi cercavate? E perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Gesù allora aveva, state attenti, stiamo nell'Antico Testamento. Aveva 12 anni, quindi quasi certamente erano andate a Gerusalemme per compiere il rito del bar mitzvah, cioè della maggiore età, diventare figlio della legge. Sapete che un ragazzo ebraico diventava figlio della legge, bar mitzvah significa figlio della legge proprio, con un rito particolare in cui, all'interno del quale proprio il papà diceva: a questo punto, da questo momento in poi, io non sono più responsabile delle azioni di questo ragazzo, perché gli ho insegnato la scrittura, il dialogo che Gesù fa con i dottori, era sicuramente che, riprendendo l'esame terribile che veniva fatto, e dovevano sapere tutti i ragazzi, altro che il catechismo nostro, dovevano sapere la Torah, dovevano sapere la Bibbia, dovevano sapere il Midrash, dovevano sapere come si chiama, il Talmud, dovevano sapere le traduzioni liturgiche, che adesso non mi sfugge il nome in questo momento ebraico, quindi... il padre diceva: da questo momento lui è responsabile. Quindi capite, Gesù è diventato maggiorenne, si diventava maggiorenne a 12 anni, quindi stava perfettamente nella facoltà di poter compiere un gesto, come dire, vedete, senza come dire, il permesso e l'autorità dei genitori. Io mi sono sempre chiesto: ma perché Gesù non ha chiesto il permesso a Maria e a Santa Maria Santissima e a San Giuseppe? Perché non li ha avvertiti? Perché non li ha avvertiti? Ha fatto, come dire, una specie, Dio mi perdoni, capite il senso in cui lo sto dicendo, no? Ha fatto una piccola marachella. Allora dobbiamo dire che Gesù bambino ha fatto un peccato, che Gesù bambino non era, che Gesù adolescente non era obbediente ai genitori, che doveva andarsi a confessare perché aveva fatto stare in pena 3 giorni la madre e il padre, come realmente erano stati in pena angosciati. Sapete che lo smarrimento di Gesù è recitato nella corona dei 7 dolori di Maria come il 3° dolore della Madonna, dopo la profezia di Simeone, dopo la fuga in Egitto, un dolore immenso per la Madonna. Allora come la mettiamo? Gesù è cattivo? Gesù fa soffrire gratuitamente sua mamma? O c'è qualche altra cosa? È ovvio che c'è qualcosa. In questo mistero Gesù afferma il primato di Dio sui genitori. Il primato di Dio sui genitori. Primato che i genitori devono rispettare. Devono. E se non lo rispettano, costringeranno i figli a soffrire, perché soffriranno, ma i figli saranno tenuti a soffrire per dare a Dio ciò che è di Dio. Ricordando ai genitori che non fanno questo perché non gli vogliono bene o non gli obbediscono, ma fanno questo perché amano ed obbediscono a Dio prima e più che a loro, come è dovuto, perché il 4° comandamento viene dopo i primi 3. Ecco, punto. Ricordate, Catechismo della Chiesa Cattolica 2217. Se qualcuno pensa che queste sono esagerazioni di Don Leonardo, legga con attenzione questo numero del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ok. Il terzo dovere contenuto nella pietà filiale, andiamo verso la conclusione di questo primo argomento, è quello, attenzione, di assistere moralmente e materialmente i genitori nel tempo della loro vecchiaia, oppure quando versassero in condizioni di malattia, solitudine o indigenza economica. Allora facciamo attenzione, come detto in introduzione, noi il dono della vita non possiamo restituirlo, questo è indubbio, non possiamo ridare la vita, ma le cure che i genitori hanno esercitato nei nostri confronti, possiamo e dobbiamo ricambiarli. Dobbiamo. Allora, io non so se questa è un'opinione personale, d'accordo? E vi posso leggere ancora quello che c'è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, il 4° comandamento, siamo nel 2218, ricorda ai figli divenuti adulti le loro responsabilità verso i genitori. Nella misura in cui possono, devono dare l'aiuto materiale. Materiale vuol dire i soldi, la casa, ciò che è necessario per vivere. E morale. Quando? Negli anni della vecchiaia, in tempo di malattia, di solitudine o di indigenza. E Gesù richiama a questo dovere di conoscenza, dopo lo vedremo nella citazione, vi ricordate l'episodio in cui stava contendendo come al solito con i farisei, che sostenevano che se una cosa dovuta ai genitori, dovuta a motivo della loro indigenza, veniva dichiarata corban, cioè offerta sacra, si poteva tranquillamente, questo è il contrario di quello di prima, il contrario, cioè io do una cosa al Padre Eterno, quindi faccio un'offerta alla Chiesa, nell'illusione che fare quell'offerta alla Chiesa possa esonerarmi dall'aiutare materialmente i miei genitori. Ma non va azzardate, eh. Allora, io ho un'esperienza negativissima, ragazzi. Quindi su questo punto vi ho letto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quello che vi sto per dire non ci sta dicendo non c'è scritto esplicitamente nel Catechismo della Chiesa, ma lo ritengo scritto implicitamente. Ed è questo. Io ritengo che chi si azzarda a mettere i genitori in un ospizio quando sono vecchi, se la vedrà con la giustizia di Dio, e non poco. Dico questo perché da giovanissimo prete, da giovanissimo vice parroco, ho avuto la sorte, diciamo così, di fare una esperienza di servizio presso una struttura di questo genere, quindi una casa di riposo per anziani. E vi posso dire quello che ho visto e udito. E non vi fate illusioni, perché ogni tanto vi sento dire qualcuno: ah, ma lo portiamo in quella casa di riposo, dove lo trattano tanto bene, dove ci sono tutti comfort, giocano a carte, sono serviti e riveriti, mangiano bene. Bugie. Facciate. Io ho visto delle scene che, vi ripeto, sono sacerdote, ma hanno suscitato dentro il mio cuore una indignazione fuori del comune, che se non fossi stato sacerdote e se non fossi stato cristiano, perché neanche i cristiani possono fare questa cosa, avrei reagito in maniera ferma, ecco, mettendomi a gridare anche, perché alcune cose, vedere le persone anziane trattate in certi modi, non si può tollerare, non è possibile. E non si può sentire, e questo ve lo racconto in forma anonima, una povera persona, una donna di 87 anni, se non ricordo male, 4 figli, dirmi, ve lo immaginate, quando mi vedevano gli si illuminava la luce. Avete visto quando mi vedevano era la festa. Io andavo possibilmente una volta a settimana, ma non sempre avevo modo, ci riuscivo a celebrargli una messa in loco. Quando mi vedevano era il sole che compariva. Mi fermavo ogni tanto a fare 2 chiacchiere con queste povere principesse, ecco, perché tali sono, e patriarchi e matriarche. Questa povera donna diventa una città del nord Italia, mi disse: io ho fatto 4 figli, padre, ma mi hanno mandato qua dentro, lontano da casa, non mi vengono mai a trovare, cosa sto a fare io qui dentro? Solo una cosa, sto semplicemente aspettando di morire per togliere il disturbo. Ecco, io ritengo che una cosa di questo genere non si debba sentire, non si deve sentire. Un genitore questo non lo deve dire, e i figli che sono stati la causa di questo, io spero di sbagliarmi, perché se la vedranno con il Padre Eterno. I genitori vanno custoditi quando sono anziani. Vi posso dire che, se è possibile, per quanto ho visto io anche con i miei genitori e anche con altre situazioni, quello che desiderano i genitori è possibilmente rimanere a casa propria, perché purtroppo sono consapevolissimi che se entrano in qualche casa vanno a disturbare, non dovrebbe essere così, ma purtroppo loro questo pensano. Quindi bisogna mettere i genitori in condizione di poter continuare a vivere a casa propria. Se non sono autosufficienti, ci si mette le mani in tasca e si paga una badante, non per lavarsene le mani, perché paghi la badante ma ne vai a trovare tutti i giorni, gli fai sentire vicino la presenza, non è che li appalti, perché sennò anche quello diventa un'altra cosa indegna. E se non fosse possibile, te li prendi e te li porti dentro casa e dici: ma mi danno fastidio. Ti danno fastidio? E quanto fastidio gli davi tu quando avevi 6 mesi, che una notte piangevi e non li facevi dormire? Quanto fastidio gli hai dato tu? Ci potranno dare un po' di fastidio anche a noi? Ecco, quindi io ritengo gravissima questa cosa. E ben pochi se la confessano. I genitori non vanno abbandonati. È inutile che dici, ma tenerlo dentro l'ospizio mi costa 1.000 euro al mese di retta. Sono soldi sprecati. Perché comunque ciò che i genitori percepiscono è, io sono stato buttato fuori. Cioè, non è soltanto un problema di soldi, è un problema di affetto. Cioè, e non vanno maltrattati. Cioè, io ho anche visto, insomma, cioè, Cribbio, è vero che a volte le persone anziane possono dire qualche sproposito, insomma, qualche cosa che magari non è del tutto consona, non è del tutto adatta, a volte sono fuori, come dire, ovviamente, dei nostri tempi, delle problematiche di oggi, però bisogna avere un minimo di rispetto, di considerazione, non si possono trattare come pezze da piedi, non si possono azzittire o dire, ma tu non capisci niente, state zitta, ma non si fanno queste cose qui, ragazzi, né da giovani, né tantomeno da vecchi, né tantomeno da vecchi. Adesso vi leggo cosa dice la scrittura su questo, che vi ripeto, non c'è scritto nel catechismo che mettere un figlio, mettere un genitore in un ospizio è peccato mortale, ma capite, alcune cose si capiscono. Ecco, vi leggo, cominciamo da Gesù, quello che vi ho accennato prima, quando discuteva e rimproverava quegli individui che si chiamano i farisei, ecco, che pretendevano appunto di sottrarre l'aiuto economico dovuto ai genitori indigenti sotto lo specioso pretesto di devolvere il denaro a scopi di culto, sperando poi che magari tra quelle offerte devolute allo scopo di culto, così Don Leonardo fa un cattivo peccato di pensiero, magari qualcosa non se la mettessero in tasca, ma speriamo di no, Dice, Mosè disse, Gesù, vedete come riporta sempre alla parola di Dio, Mosè disse, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Ecco, questo è come l'episodio del Vangelo di domenica, non dobbiamo certamente ammazzare nessuno, però il fatto che l'adulterio era punito con la lapidazione, che oggi non si può e non si deve ovviamente fare, cosa fa comprendere? Fa comprendere che l'adulterio è un peccato gravissimo. Lo era e lo è, anche se oggi non si deve e non si può lapidare nessuno. Il fatto che dice che chi maledice il padre e la madre sia messa a morte vuol dire che questa è una cosa grave, non è una cosa da nulla. Allora, voi invece dicendo, e non è soltanto una maledizione diretta, perché è una maledizione anche indiretta, l'esempio che fa Gesù qui, non è che uno ha detto al padre che tu sia maledetto, per carità. Continua la citazione, voi invece dicendo, se uno dichiara al padre o alla madre è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete di fare più nulla per il padre e la madre, annullando la parola di Dio, con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Adesso abbiamo la maniera del 68, delle cose a destra e a sinistra, la rivoluzione contro l'autorità, vietato vietare, eccetera eccetera, i genitori sono diventati delle cosiddette, dicono a Roma, pezze da piedi. Ma questo non può essere, questo qui, ragazzi carissimi. Ora, questo severissimo monito di Gesù fanno eco, o meglio fanno da battistrada, alcune espressioni che vorrei leggervi, tratte dal terzo capitolo del libro del Siracide. Torniamo a questo bel libro sapienziale, che dice queste parole, cito ancora: figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia e non contristarlo durante la sua vita. Guarda, anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno del vigore. Siracide 3, 12, 13. Poi c'è un'altra citazione, due versetti più avanti, versetto 16, che riprende discorso analogo e simile Però questa volta tuona. Ecco. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Attenti, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Pensate un po'. Ripeto, Siracide 3:16. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Quindi capite la severità di questo monito. Allora, si tratta di un'assistenza, vi ripeto, materiale. Se un genitore adulto si trova o nella vecchiaia o nella malattia, dove lo porti? Ah, non, ve ne devo raccontare un'altra di bella cosa. In quale ospedale li portiamo i nostri genitori? E come li trattiamo quando stanno in ospedale? Ecco, un'altra brutta esperienza. Guardate ragazzi, parlo specialmente ai maschietti, se qualcuno ci avesse la vocazione a fare il prete, sappia che è una grandissima responsabilità davanti a Dio e se uno ci si dovesse mettere a pensare, diceva il santo curato d'Ars, nessuno risponderebbe di sì a questa vocazione. Però c'è anche il rovescio della medaglia, cioè si vede di tutto, cioè si acquisisce una tale esperienza di vita, specialmente per chi sta in cura d'anime, che davvero io penso che sia qualcosa di assolutamente inimitabile e impagabile, straordinario proprio. Allora, un prete vede di tutto e di più, ragazzi e ragazze carissimi, di tutto e di più. Allora, non ho visto soltanto quelle brutte cose negli ospizi, ho visto tante brutte cose negli ospedali, persone anziane, in fin di vita, buttate dentro un letto, senza che mai nessuno si affacciasse a dirgli almeno ciao, come stai? E in più, dovendosi sorbire angherie, maltrattamenti e cafonate da parte di infermieri e inservienti poco professionali, e uso un eufemismo, per nulla cristiani. Ora, se tuo padre o se tua madre stanno male, tu non li sbatti nel primo ospedale pubblico che trovi. Se puoi, come diceva il buon padre Pio, nel malato c'è Cristo, nel malato povero c'è Cristo due volte, nel malato genitore povero, ma che c'è Cristo tre volte. Ecco. Quindi, se puoi, li porti in un posto decente. E se non puoi portarli in un posto decente, li puoi anche mettere in un posto non troppo decente, ma stai lì. O fai in modo che ci sia sempre qualcuno lì e tu non te ne lavi le mani, non li lasci da soli. Quando stiamo male abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia vicino. Ma come può stare un genitore che si vede sbattere in ospedale da un figlio che non è manco capace a dirgli buongiorno, ciao, come stai? Il figlio. Allora, facciamo attenzione, ragazzi e ragazze carissimi e anche meno giovani ascoltatori di Radio Buon Consiglio, che il Signore ci aiuti e ci illumini, ecco, perché dinanzi a queste cose non dobbiamo essere leggeri. Ricordo, sintetizziamo in conclusione, la pietà filiale comprende il dovere di riconoscenza e di gratitudine, nelle forme e nei modi che abbiamo identificato, il dovere di ubbidienza fino alla maggiore età, piena dopo la maggiore età, come dire, limitata, ecco, e a volte gradualmente evanescente, quindi limitandosi poi all'ascolto e alla docile, come dire, considerazione dei consigli, non più degli ordini che danno i genitori, e l'assistenza morale e materiale qualora ne avessero bisogno, ma soprattutto nel tempo della vecchiaia, oppure nel tempo della malattia, della solitudine o della indigenza economica. Cosa ci faccio con un genitore dopo che è morto uno dei due? Ecco, eccetera. Stiamo attenti, ragazzi carissimi, su queste cose, perché la Bibbia è severa, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Ecco, e non nascondiamoci sotto falsi pretesti per distoglierci dall'adempimento di questi che sono veri e propri doveri. Ovviamente nelle prossime puntate parleremo anche dei doveri reciproci che abbiamo un pochino accennato, identificando anche i margini, diciamo così, di ampliamento alle altre autorità di questo comandamento. Io vi saluto, vi do appuntamento, se vorrete, alla prossima settimana. A tutti, Ave Maria.